Letture di Radio 24. In occasione della riedizione di un classico della letteratura italiana, Il Marcovaldo di Italo Calvino, il critico letterario Domenico Scarpa dedica sull'inserto Domenica legato al Sole 24 Ore di oggi un articolo sulle origini pedagogiche del romanzo. Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città, opera presentata da Calvino come un libro per ragazzi, è un testo limpido ma non facile, la cui morale è tutt'altro che elementare. Gli atteggiamenti suggeriti dalle 20 avventure e disavventure di Marcovaldo sono complessi. Si direbbe che in questi 20 racconti brevi, intitolati ciascuno a una stagione dell'anno, Calvino abbia sintetizzato almeno due caratteri del suo sguardo sul mondo: la conoscenza della realtà per mezzo di piccoli indizi da cogliere, a cominciare da quei funghi cui il solo Marcovaldo fa caso in primavera, fra le aiuole alla fermata del tram, e lo straniamento, uno straniamento per grandi e piccini. Il procedimento letterario, cioè, che consiste nel presentare un oggetto noto secondo un'angolazione che lo renda irriconoscibile a prima vista, come succede con i cartelli pubblicitari, che sulle prime autostrade italiane al principio degli anni 50 diventano riserva di legna da ardere in un raccontino invernale. Si trattava, insomma, di dare in lettura ai ragazzi del dopoguerra italiano un'opera la cui morale fosse adulta nella forma prima che nel contenuto. Il progetto pedagogico di Marcovaldo ebbe larga diffusione. 1.350.000 copie vendute nel periodo 1963-88, andate in gran parte per le scuole, ma dubbia penetrazione. E sulla pedagogia italiana, di mezzo secolo fa come di oggi, è necessario convocare un secondo testimone, Pierpaolo Pasolini, che nei primi giorni del 1963 così conversava con Alberto Arbasino. «Da un'occhiata con me agli anni 50 appena lì, alle nostre spalle. Non li trovi ridicoli? Un ridicolo decennio. Il ridicolo, specifica Pasolini, si deve al moralismo che da tempo ha contagiato anche le sinistre. Un moralismo ideologico, punitivo, censorio. Un moralismo uguale e contrario rispetto a quello cattolico. Un moralismo che negli anni 50 prendeva di mira i cosiddetti compagni di strada, ivi compresi Pasolini e Calvino, i quali non apparivano mai abbastanza ortodossi agli occhi dei critici funzionari di partito. Questa irrespirabile atmosfera del moralismo piccolo borghese di sinistra, conclude Pasolini, è stata castrante per tutti. Nel 1963 Pasolini e Calvino sono due amici che combattono affiancati, sia pure con mezzi diversissimi, per sottrarsi a un clima civile soffocante. Gli anni 50-60, stavolta è Calvino a parlare, sono stati anni esteriormente non ingenerosi e il nostro benessere è aumentato. Ma in realtà sono stati anni duri, con alterne fasi di denti stretti, ventate di speranze, calate di pessimismo e di cinismo, gusci che ci siamo costruiti. Tutti abbiamo perduto qualcosa di noi stessi, poco o tanto. Conta quel che siamo riusciti a salvare, per noi e per gli altri. All'attivo di quel salvataggio andranno calcolate le storie di Marcovaldo, nella cui filigrana si può decifrare un'utopia linguistico-pedagogica più che politica. La sola utopia, d'altronde, che uno scrittore possa decentemente praticare. Per Calvino, quell'utopia di stile era un carattere ereditario. Gli veniva dai genitori e non si trattava di un lascito comodo da acquisire. L'11 ottobre 1940, le edizioni G.B. Paravia e Company di Torino stampavano un manuale intitolato 250 quesiti di giardinaggio risolti. Gli autori, Eva Mameli Calvino e Mario Calvino, dirigevano a Sanremo la stazione sperimentale di floricoltura Orazio Raimondo. In questo piccolo volume compilato a quattro mani, la madre e il padre di Calvino risolvono le difficoltà incontrate dai dilettanti di giardinaggio. La lingua dei quesiti di giardinaggio è affabile, asciutta e precisa. Una lingua senza il minimo residuo di passatismo, che si potrebbe oggi ristampare invariata. Sintesi e sveltezza sono i suoi connotati. Ciascun quesito è accompagnato dalla città del mittente e dal mese, notizie indispensabili per fornire la soluzione appropriata. Roma, novembre. Pinerolo, aprile. Palermo, maggio, e così via. Gli richiama giocoforza i cicli stagionali di Marcovaldo. Mentre i nomi degli antiparassitari, Solbar, Coccidol, Monital, lo riporteranno alla bellissima formica argentina. Queste scoperte genealogiche non sono curiosità d'epoca e nemmeno vogliono limitarsi a registrare una cifra biolinguistica costante. C'è dell'altro. Proprio come il suo Marco Valdo, Calvino Junior aveva voltato le spalle alla campagna di Sanremo, trasferendosi in una grande città, Torino, alcuni mesi dopo la fine della guerra. Interruppe anche gli studi di agraria intrapresi solo in obbedienza al padre e si iscrisse a lettere. Lo strappo dal suo manovale con il passato riguarda anche lui, anzi, era stato lui a darlo per primo. I 10 anni durante i quali le avventure di Marco Vallo prendono forma sono gli stessi in cui Calvino si decide a fare i conti con sua madre e con suo padre. Incolume esteriormente, ma non cinico se non per sfida e per autocastigo, nelle pagine autobiografiche della Strada di San Giovanni, Calvino ritorna alla campagna da cui ha voluto separarsi. Si rivolge alla pedagogia di sua madre e di suo padre, alla quale ha opposto un rifiuto, e rovista tra quei nomi botanici che non si è mai deciso a imparare, al punto da essere costretto ora a inventarseli. In questa contraddizione profonda, profondamente nascosta nelle sue pagine, troviamo forse la radice della malinconia puntiforme che non abbandona il lettore nemmeno quando attraversa le avventure di Marco Valdo più leggere, più toccate dalla grazia, più ventilate dal divertimento. È questa contraddizione che ci fa tornare a leggere, ancora una volta, le opere di un pedagogo perdente come Italo Calvino. Avete ascoltato la lettura dell'articolo "E Calvino seminò il suo futuro" di Domenico Scarpa, sull'inserto Domenica del Sole 24 Ore in edicola oggi, dedicato alla riedizione del Marco Valdo di Italo Calvino. Andreste mai in vacanza a Chernobyl? Una visita turistica proprio sul sito della centrale abbandonata dove 25 anni fa esplose il reattore numero 4, provocando il più grave incidente nucleare della storia. Il governo di Kiev ha deciso di formulare alcuni pacchetti turistici di visite guidate all'interno della struttura. Sentiamo di cosa si tratta in questo articolo tratto da Italia Oggi. Il governo ucraino ha annunciato l'apertura al turismo della zona di esclusione attorno alla centrale nucleare di Chernobyl. L'area ha una superficie come quella della provincia di Roma. Essa circonda il reattore esploso il 26 aprile 1986 e che, dopo l'evacuazione della popolazione, è rimasta chiusa, presidiata da militari. Qualche forma di turismo nella zona già c'è. Nel 2002, 2 anni dopo la chiusura dell'ultimo dei 3 reattori gemelli a quello esploso e ancora funzionanti dopo l'incidente, alcuni imprenditori di Kiev hanno ideato dei pacchetti turistici proponendo dalle gite di mezza giornata fino a soggiorni con pernottamento di una notte a Chernobyl. Circa 1 migliaio di visitatori all'anno. Fiutato il business in previsione del flusso di arrivi collegato ai campionati europei di calcio che l'Ucraina ospiterà nel 2012, il governo di Kiev ha deciso di sfilare ai privati questa attività. Chernobyl esercita il suo fascino perverso su un variegato campionario di cittadini prevalentemente europei. Essi sono antinuclearisti in cerca di conferme, fotografi a caccia di immagini graffianti, nostalgici che inseguono la suggestione di una cittadina modello di stampo sovietico. Ci sono anche delle coppie che si fanno fotografare davanti al sarcofago del reattore N4. Si spendono $130 per la visita di gruppo, fino ai $500 per un'escursione privata, sempre sotto stretta sorveglianza di una guida. Unico requisito, un passaporto. Tutte le formalità si sbrigano via web fino all'appuntamento nella piazza centrale di Kiev. La bonifica ha richiesto il lavoro di 9.000 uomini per rimuovere più di 240.000 tonnellate di detriti, nel sollevamento del manto stradale, nel disboscamento delle conifere contaminate, poi sepolte a 6-8 metri di profondità. Le proporzioni dell'apocalisse si percepiscono davanti al monumento alla memoria dei 29 pompieri, i primi a recarsi sul posto cercando invano di domare un incendio che richiese 7 mesi di interventi. Allora era sufficiente sorvolare per 15 minuti l'area in fiamme per assorbire una dose radioattiva letale. Da allora i valori si sono ridotti di 5.000 volte. A 200 metri dal reattore 4 l'allarme sonoro del dosimetro echeggia con insistenza. 0,7 microsievert all'ora, ossia 6,2 millisievert all'anno, l'equivalente delle radiazioni ionizzanti che si assumono con una tacca e mezza. A questi livelli il rischio nasce solo dall'esposizione prolungata. La visita non comporta rischi per la salute, purché si rispettino certe regole, come rimanere sul cemento piuttosto che sulla terra, non toccare nulla, soprattutto non il muschio, eccezionale ricettacolo di radiazioni. A ogni buon conto, i visitatori firmano una liberatoria che preclude ogni contenzioso e si impegnano a non trafugare souvenir. Ogni infrazione viene facilmente individuata al controllo in uscita, con il passaggio in un dosimetro che misura le radiazioni assorbite. La zona di esclusione si sta ripopolando. 300 coloni sono tornati a vivere nel raggio di 30 km dalla centrale. Ogni giorno 8.000 persone fanno i pendolari tra Slavutich, città sorta dal nulla a 50 km, ora Bielorussia, e la zona di esclusione. Tra questi ci sono i 900 operai che lavorano alla costruzione della gigantesca struttura in acciaio di confinamento del reattore 4, ora coperto da un sarcofago di cemento, per permettere le operazioni di smantellamento senza rischi di contaminazione ambientale. Appaltata al consorzio francese Novarca, l'opera ha l'altezza di un edificio di 30 piani e costa 856 milioni di euro, finanziati principalmente dalla Commissione europea e dagli Stati Uniti. La struttura assemblata a lato del reattore gli sarà fatta slittare sopra, scivolando su delle rotaie. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Chernobyl diventa meta turistica» di Patrizia Feletig, pubblicato da Italia Oggi di martedì 11 gennaio.